Birgitta. Ad Aspudden c'era un vento freddo, ma il sole splendeva e mandava riflessi sull'acqua. Birgitta si accese una sigaretta e inalò cautamente il fumo. Soffocò un colpo di tosse e beve un sorso di Coca-Cola. Due sapori, la bibita e la nicotina, intimamente collegati a quel quartiere, dove era cresciuta ed era diventata una donna. Una volta all'anno ci tornava, faceva un giro tra i casermoni e poi si sedeva sugli scogli con la sua coca e le sue sigarette. Non l'aveva mai detto né a Jacob né ai figli, e loro non glielo avevano mai chiesto. Cambiando posizione, sentì una fitta alla costola. Il medico le aveva chiesto perché non fosse mai andata a fare la mammografia. Birgitta rise. Diede un altro tiro alla sigaretta e controllò di avere nella borsa delle gomme per nascondere l'odore. Come ci sarebbe rimasto se gli avesse detto la verità? Perché mio marito mi riempie di botte ogni volta che gli salta in testa, ma fa attenzione a picchiarmi dove non si vede. E io mi sono sempre detta che finché non si vede, non è successo niente. Aveva 27 anni quando aveva conosciuto Jacob in un locale del vecchio quartiere Clara, che ormai aveva lasciato il posto ai grattacieli della City. Non ricordava più il nome del bar e non aveva nemmeno importanza. Jacob era lì con alcuni amici. Un futuro commercialista appena laureato in giacca marrone, cravatta sottile e capelli con la riga da una parte. Uno snob, aveva pensato Birgitta. Poi alcuni dei ragazzi che erano con lui si erano avvicinati a lei e alla sua amica per invitarle al loro tavolo. Avevano risposto che ci avrebbero pensato e un attimo dopo si erano unite alla banda degli studenti di economia. Già allora Jacob era silenzioso, introverso. Mentre i suoi compagni portavano avanti la conversazione, lui si limitava a buttare lì un commento ogni tanto, sorseggiando il suo vino. Più tardi, quella stessa sera, si erano trasferiti tutti in un nightclub. Per Birgitta era troppo rumoroso ed era stata felice quando Jacob l'aveva presa per un braccio e le aveva proposto di andare da qualche altra parte, dove si potesse sentire cosa si pensava. «Vengono anche gli altri?» Jacob aveva scosso la testa. «No, solo tu e io». Birgitta si era sentita speciale, una prescelta. Capiva che Jacob non era tipo da sprecare parole invano. Fu in quel momento che diventò sua. Fu in quel momento che la sua vita cambiò. Se non fosse andata con lui quella sera, forse tutto sarebbe stato diverso. Forse non avrebbe avuto lividi ed escorazioni da nascondere quando l'avessero convocata per una mammografia. Due bambini avvolti in tute imbottite dai colori vivaci e con i berretti calcati sulla fronte lanciavano sassi dalla riva. Birgitta si guardò attorno per vedere se qualcuno li stesse controllando. Basta un attimo perché succeda un incidente. Una giovane donna seduta su una panchina li teneva d'occhio. Birgitta la salutò con un cenno della testa, ma allo stesso tempo provò anche un senso di delusione. Se i bambini fossero entrati in acqua, magari li avrebbe salvati e i genitori le sarebbero stati eternamente grati. Magari anche il giornale locale ne avrebbe parlato. E se fosse addirittura morta nel tentativo di salvarli? Non poteva pensare a una fine migliore di quella, sacrificare la propria vita per due bambini. Così forse anche Jacob e i gemelli sarebbero stati orgogliosi e avrebbero parlato bene di lei nell'articolo. «Mi sa proprio che stai uscendo di testa, cara mia», mormorò tra sé.